24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Questo movimento il 4 di ottobre di 3 anni e mezzo fa, il giorno di San Francesco, apposta. Noi siamo i primi francescani in Italia. Il Papa è venuto dopo e il Papa non è un francescano, è un grillino. Papa Francesco, anche lui è un grillino, così Beppe Grillo in un comizio elettorale. Buongiorno cari italiani, ben svegliati alle 6.35 minuti, a Milano piove da 746 giorni consecutivi e sembra non fermarsi più. Evviva! E allora voglio salutare la nostra Miriam Lucchetti in redazione, il nostro grande alpino Peter Bescapè in regia, che lui alle intemperie del tempo, però insomma, che dobbiamo dire, a lui che gli frega se piove, sono 4 gocce d'acqua per lui. E allora, che dire, dobbiamo aprire il nostro Parlamento, sì, ultimo giorno della settimana, Parlamento aperto, evviva! Il caffè volentieri a tutti quanti. Nicole Minetti è sempre con noi a offrire il caffè e voglio salutare con noi intanto Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Buongiorno, ben ritrovato Rienzi. Buongiorno a voi. Come sta a Roma? C'è il sole? C'è... Dunque, ti pare una bella giornata, intravedo. Mannaggia, ci va subito, ci mette subito di malumore così. Allora, allora a Milano invece saluto Paolo Del Debbio. Buongiorno Del Debbio. Buongiorno. Eccoci. A Milano è già uscito di casa Del Debbio? Fa schifo Milano. Sì. Attenzione, se passa attorno al Monumentale, come ho fatto io stamattina al cimitero Monumentale, sì, porti un paio, sì, di pagaie dietro che c'è da fare un 100 metri da lasciare giù la macchina. Ho visto io, il ministro Josefa Idem che si allenava oggi a Milano. Passava, dove era allenarsi? Con la canoa passava. Al Monumentale. Ieri c'era il sole a Milano e a Roma pioveva. Sì, ieri c'era il sole a Milano, infatti abbiamo detto no, così è troppo e siamo subito tornati alla pioggia. Allora, Del Debbio, tutti i giorni seguo anche Quinta Colonna del quotidiano, voi ce l'avete con Grillo, eh? Ha sentito? C'è anche il Papa Grillino, adesso vuol mettersi, sì, mica contro... Sì, ho sentito, sì. Mica mettersi contro il Papa Francesco anche, che peraltro poi è un gesuita, ma insomma vabbè, comunque francescano. Sì, bisogna stare anche attenti. Appunto. Ci si misero anche Pascal e qualche altro che finirono anche male, ti attento Grillo. No, comunque ha detto, i veri francescani siamo noi. Sì, sì. Batte su questo tasto dei soldi, c'è da dire che questa storia dei soldi è proprio... Ma non è che rischia di diventare un po' il lato sul quale verrà attaccato di più? Ma sì, ma perché è una difesa, diciamo, è la difesa d'attacco, no? Come quelli là, ci sono quelli che picchiano la moglie, andano via a casa, io non lo so, ma te lo sai che motivo c'è. Sono così, cioè, quando uno attacca in modo virulento e forte su un tema del genere, oltre, diciamo, quello che gli viene detto, vuol dire che c'è qualche problema, no? No, è che è l'elemento più sensibile sul quale hanno fatto tutta la campagna elettorale. Adesso No, ma qualche problema, no, questo è ovvio, ma voglio dire, evidentemente qualche problema c'è, e quindi attacca e porta la cosa nel paradossale pensando di coprire la realtà, no? È ovvio che è così, se no perché lo fa? Perché questo a questo punto, no, proprio su quel punto lì, che tra l'altro ora è un punto che in tutta Italia, a parte la Grillo, purtroppo sulle spese della politica è calato un po' di velo. È calato un po' di velo, ma questo vorrei sottoporvi, Carlo Rienzi, oggi almeno Repubblica scrive, il premier Enrico Letta è deciso a portare in Consiglio dei Ministri questa mattina a raccogliere tutti i disegni di legge parlamentari 5 Stelle, PD, che vogliono abolire il finanziamento pubblico ai partiti e uscire dal Consiglio dei Ministri con un ok politico, un sì politico, per dire cancelliamo il finanziamento pubblico ai partiti. Rienzi, questo sarebbe un bel venerdì. Allora, il finanziamento pubblico ai partiti va cancellato sicuramente, perlomeno con alcune modalità. Ma perché non esce stamattina pure con la chiusura di tutte le province immediate? Già, cioè, a tre mesi, sono migliaia di poltrone dei politici che dovrebbero saltare. Ma Rienzi, e non saltano. Ma lei si è svegliato col buon umore, Rienzi, questa mattina? No, io sono molto incavolato perché apro il giornale e, dico, e leggo che la Confindustria naturalmente dice che siamo sull'orlo della bancarotta. Sì. Infatti mi sembra un po' esagerato, perché poi dice tutta Europa che sta, ha avuto lo stesso calo della... della borsa, quindi mi sembra esagerato. Ma Rienzi, non parli male di Confindustria, che siamo a Radio 24. No, no, vabbè, ma no, ma qua c'è qua c'è libertà, non c'è problema. Ma no, Rienzi può dire quello che vuole, insomma, faccia le sue critiche. So che posso dire quello che vuoi. Quindi secondo me bisogna fare subito, intanto non farsi spaventare da queste uscite che sono terribili, ma capire per esempio che la crescita deve essere legata a cose come il turismo, che noi abbiamo un valore enorme, dico in Italia, un valore enorme di turismo, di bellezze naturali, che se ce l'avessero gli americani, camperebbero solo su quello. Chiaro. Sì, però lei... abbiamo i monumenti che cadono a pezzi, a Pompei che si rubano i soldi, e questo è lo sfruttamento che facciamo. Della però lei dice le province, naturali, eh? Lei dice le province. Oggi sul Corriere della Sera, Sergio Rizzo, ce l'ho qui davanti, fa proprio l'elenco, i tribunalini che dovevano accorpare i tribunalini... Cancellata la riforma, le province, cancellata la riforma, la riforma elettorale non ne parliamo, siamo al porcellinum, il maialinum, poi cosa ho letto, l'inciucellum, l'obbrobrium, siamo veramente proprio uno schifum totale. E poi vi ricordate i costi standard? Oggi Sergio Rizzo dice no, quello per stabilire che le siringhe costino in tutte le ASL, scomparsa anche quello, del debito. Non si l'avrebbe chiesto alla Lega però. Non si sapeva, ma la Lega ormai insomma... ormai la Lega è di lotta, è di governo e di semilotta. No, hanno no, conquistato. Ma l'altra sera ci ho avuto in trasmissione Borghezio, sì. Che mi ha detto no, ma in fondo dobbiamo rifare un po' di pacificazione nazionale col sud, cioè Borghezio. Vabbè che il giorno dopo poi... Ma non ha detto neanche una parolaccia, cioè ha fatto un discorso così senza neanche un vaffanculo a qualcuno. No, ha detto quello, poi ha dato la mano a uno, c'era lì, Cipoti gli ha dato la mano. Cose incredibili a quinta colonna accadono, Borghezio che dà la mano a qualcuno, Sì, esatto. Sì, no, poi a Scilipoti. A Scilipoti. Che non è del nord. No, non mi sembra sia del nord, no, Scilipoti. Però ieri ormai... si deve essere sparso oltre la pioggia un virus un po', a parte Grillo e il Papa Grillino. Sentite Ferrero dei comunisti, sì. Di Rifondazione. Quando il Partito Comunista stava al 25%, i lavoratori e i pensionati stavano un po' meglio. E che adesso che i comunisti sono fuori dal Parlamento da 6 anni, gli italiani non sono mai stati così male dopo la Seconda Guerra Mondiale. Eccolo lì, Del Debbio, Rienzi. Abbiamo risolto. E il problema è questo, non ci sono più i comunisti. I comunisti stanno troppo pure nelle fondazioni. Tutti gli altri, che dice, aspetta Rienzi, no, aspetta, Rienzi vuol sistemare le fondazioni, attenzione. Le fondazioni. Una cosa maliziosa, i comunisti stanno spesso troppo nelle fondazioni. Ma quali fondazioni? Quella del Monte dei Paschi di Siena. Mo si parla pure di lobby del gioco che pagano fondazioni che fanno capo al Presidente del Consiglio, l'ho letto sul Fatto Quotidiano. Sì, sul Secolo per la verità, cioè sì che hanno dato 20.000 euro a Vedrò del Presidente del Consiglio. Vabbè, ma era meglio che se lo risparmiavano. Insomma. Vabbè, ma sì, ma sono società, la SISA, la Lottomatica, che c'ha del debito invece sui comunisti. Beh, Ferrero dice difendevano i lavoratori, i pensionati, adesso invece non li difende più nessuno, questa è vero, li difendevano a tal punto che poi davano anche le pensioni di invalidità, una serie di cose, cioè abbiamo il debito pubblico, ma questo è un particolare, diciamo, che ha prevedo vabbè, comunque il virus ci sono. Boldrin, quello di fare per fermare il declino, ieri era da Lilli Gruber, sentite invece Boldrin. In Italia abbiamo distrutto l'impresa perché e allo stesso tempo distrutto il reddito da lavoro. La precarietà nel pensa lavoro. A casa, pensa, ma la precarietà c'è in tutto il mondo, la precarietà è una bella cosa alla fine, ma so dove vivo. Sì, la precarietà è una cosa utile nel mondo che cambia. Eccoli, la precarietà è una bella cosa, è una cosa utile. Ecco, non so, Renzi. Vabbè, è chiaro. Illegale. Beh, illegale. Il lavoro precario, adesso, quando è ripetuto per 20 anni, come è stato per esempio nella scuola, è illegale perché l'Europa lo dichiara illegale. Noi abbiamo vinto già 200 cause in tutta Italia per i precari che hanno avuto. Sì, però quello che voleva vuol dire Boldrino, poi ovviamente negli slogan televisivi, non so se Debbe d'accordo, è che lui dice una certa flessibilità o precarietà, o comunque lui dice io sono stato da 14 a 28 anni precario, cioè nel senso ho potuto stimolare altre cose diverse. Certo che quando diventa effettivamente una precarietà cronica, poi la gente... Scusi, quando lo disse Monti, dice che il lavoro fisso, che noia. Che noia, è vero, è vero. È vero, a quel tempo noia. Monti andava per la maggiore, poi ora per... Sì, che noia. Anche la collina, ma insomma... E ora invece... Ora ma poi va bene per i giovani, ma pensiamo uno a 50 anni che... rischia di rimanere in mezzo a una strada e con lui e rimangono pure i figli senza mangiare, perché oggi i nostri figli vanno avanti per la maggior parte con la disoccupazione che c'è perché li aiutano i genitori e i nonni, perché hanno sempre la possibilità di tornare a casa a pranzo a mangiare dalla mamma. Non so se è chiaro questo concetto. Se va in crisi la famiglia di origine, va in crisi tutto, è tutta una catena. Oh, ma un quarantenne su quattro vive con la paghetta dei genitori, l'abbiamo scoperto ancora, cioè vive grazie anche alla paghetta dei genitori, il 25% dei quarantenni italiani, è un dato di fatto questo, sancito da un sondaggio qualche giorno fa, e quindi il dato di fatto è questo, abbastanza preoccupante. 24 mattino. Buongiorno dottor Milan, ha visto per caso lei il video di Berlusconi? Si è messa a cantare, non so se lei ha fatto caso come cantava, a me è sembrato che vomitasse. Sì, Milan, buongiorno, io sono incazzato nero con il TGCom 24 e con il suo direttore Mario Giordano. Con tutti questi politici primo piano li fanno vedere chiaramente, si parla di Grillo, ragazzi, la fanno vedere in streaming, ma sono vergognosi, sono vergognosi. Un tuo parere, Milan, per piacere. Milan, sa che cosa mi preoccupa a me? Il fatto di vedere in televisione, su reti nazionali, la pubblicità di società che fanno prestiti ed altre che comprano oro. Ma è una tristezza immane, ma dove siamo finiti? Veramente, proprio. Oh, buongiorno, caro Milan. Siamo arrivati al dunque. Ora stanno litigando un'altra volta per il porcello, un porcellinum. Non concluderanno niente di tutto l'hanno detto e non si continuerà a pagare. L'unica soluzione valida, seria, per risolvere i nostri problemi in Italia sarebbe farli come si fece a re, un bel calcio un culo e fuori dall'Italia, fuori, espulsi. Preferisco tanti immigrati che questa branca di ladroni che ci abbiamo, che non fanno niente, un bel calcio un culo, espulsi, confisca di tutti i beni e si partì da zero, come il papà, tanto peggio di così. Ciao Milan, sono tornato. Mi hai definito inquietante, ma tu pensa a quello che sta succedendo nel mondo. I miei figlioli prediletti, Danaro, i mercati, stanno governando. È il mio trionfo e non c'è niente da fare. Del Debbio, sai chi è questo che ci è venuto a ritrovare? No. Il diavolo, così, cioè, Satana, questo ci ha detto. Che onore! Nella prima... detto Milan, perché se lo impone contro il Papa lo esorcizza. No, ma infatti, ma c'è Grillo che mi aiuta. Tra l'altro, Grillo nel senso in quanto il Papa Grillino. In quanto Francescano. Sì, diciamo. In quanto Francescano. No, ma poi mi dicono che critico. Allora noi alle 8.30, dalle 8.30 alle 9 avremo Vito Crimi, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle. Ma non mi smonti così, insomma. Lui in persona proprio. Sì, sì, lui in persona, al telefono. Renzi ha sentito... Gli chieda perché continuano a parlare delle cose senza farle. Ma questa è la domanda. Parto che molti... proprio dal Monte dei Paschi di Siena, non sono venuti nemmeno all'assemblea, continuano a dire che è uno dei più grandi furti, questi 4 miliardi che si servivano come il pane. Ma come non c'era Grillo all'assemblea? No, all'assemblea c'ero io, non c'era Grillo. No, ma c'era Grillo che ha parlato no. con... ma come non no, c'era quel profumo? Grillo all'assemblea. Ah, non all'ultima, alla prima qualche tempo fa. Vabbè, grazie, ho capito, vabbè. Ma i soldi li hanno dati quest'anno. Adesso era il momento di andare a combattere. È andato a Siena e ha fatto un comizio smussando sulla questione della banca. Ma che c'è dietro tutto questo? Io sono molto dispiaciuto di questo comportamento di Grillo. Certo, ci avranno un conto corrente la strategia associata. No, dai, l'unico che ha il conto corrente non lo cambia mai è Vincino, che spesso il Monte Paschi Siena lui ce l'ha Monte Paschi e non lo cambia, lui non lo cambia. Ma lui c'ha anche il busto di Andreotti in casa, lo sapete, il busto. A proposito di Andreotti, l'avete sentita questa? Noi avremo anche ospite uno dei questori del Senato alle 8:15, che dobbiamo dargli €1 milione. Rienzi agli eredi di Andreotti, €1 milione è il TFR reversibile. Tutti i soldi che viene i consiglieri regionali quando se ne vanno a casa, ma perché è meno grave? No, è che scandalizzare per €1 milione di questo. No, è che noi fa un po' specie. Miliardi per queste fesserie. Ma fa un po' specie che insomma Andreotti, che non c'è più, pace all'anima sua, no, del Debbio. Adesso ma era sottosegretario di De Gasperi. Sì, ho capito. C'è un bel TFR. Ha scritto la Costituzione. Sì, certo. Lì TFR aumenta, mica che ha e poi affrontava i processi. Affrontava i processi, stava sempre seduto lì con chi ce l'ha Rienzi, con chi ce l'ha Rienzi, mi sembra io non ho fiducia nella magistratura. Stamattina è polemico Rienzi, guardi che oggi proprio Repubblica scrive che anche Berlusconi, non so se si riferiva a Berlusconi, però mi è venuta questa associazione, prepara lo stile andreottiano, cioè attesa della Cassazione, poche dichiarazioni. E ora c'è Coppi, c'è l'avvocato Coppi, insomma. È cambiato, diciamo, la strategia difensiva. Ma la follia con la quale voglio chiudere oggi sulla Stampa è questa. Allora, Del Debbio, senta un po', sono arrivati dei tram bellissimi consegnati a Palermo, i 18 vagoni dalla Bombardier, tutti belli. C'è un piccolo problema di questi tram. Non ci sono le rotaie a Palermo, non hanno fatto le rotaie, c'è il tram, ma cosa ride, ma è l'Italia questa. Le possiamo portare a Roma, dove invece hanno provato il nuovo tram e non funziona. Mamma, io non lo so, ma hanno consegnato a Palermo dei vagoni fotografati straordinari tutti, ma staranno lì, non ci sono le rotaie, non hanno fatto le rotaie, ma... Del Debbio. Ma io non lo so, adesso leggerò bene l'articolo. L'ultima follia di Palermo: ci sono i tram, ma mancano le rotaie. Sulla Stampa. Ma che ci vuole a fare? Chiamiamo i cinesi, lo fanno in un attimo. Sì. Le rotaie. Ecco, chiamiamo subito dei cinesi. Subito cinesi, tutti a Palermo a mettere. Mamma mia, ragazzi, ma dove vogliamo andare in questa Italia così? Ma Del Debbio, dica una parola per consolarci. No, ma come sia Bombardier? La Bombardier è la società che ha. Gliel'avranno comprati e la Bombardier li ha consegnati. Solo che se non fanno le rotaie, i tram a spinta vanno per Palermo. Questa è roba da matti. Stasera che fate a Quinta Colonna il quotidiano? Stasera allora vediamo cosa ci dà la cucina italiana che noi poi mettiamo al fuoco. È bello perché Del Debbio si sveglia sempre così, dice chi lo sa? Chi lo sa? Faremo qualcosa anche stasera. Grazie comunque. 5 per 1000 al Codacons. Cos'è? Carlo, il 5 per 1000 al Codacons che conviene, ecco, vale la pena, meglio che darlo agli altri. Lo spottone di Rienzi, 5 per 1000 al Codacons. Grazie Rienzi, presidente del Codacons. Ci fermiamo qui, socchiudiamo il nostro Parlamento, andiamo al giornale radio, rientriamo dopo per la rassegna stampa. Volete dire la vostra? 02 4652 4492, chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02 4652 4492, e ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui allora alle 7:21 minuti, cari italiani, sotto la pioggia, almeno a Milano. Ormai piove ininterrottamente, non si sa più che fare. Ma arriverà anche la primavera, prima o poi. E allora oggi avremo ospiti. Beh, intanto dalle 8.30 alle 9 sarà con noi il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, a parlare un po' di vari temi di attualità politica. E poi alle 8.15 avremo con noi invece, quindi prima, uno dei questori del Senato, Lucio Malan, del Popolo della Libertà, per capire questa vicenda di Andreotti. Dobbiamo dare 1 milione di euro agli eredi di Andreotti, è il TFR per i 65 anni passati in Parlamento dal senatore, presidente Giulio Andreotti, scomparso qualche giorno fa. È tutto a norma, è tutto secondo le regole, ma vedremo di fare un po' questi calcoli. Intanto che cosa? Andiamo a scoprire i giornali che trovate in edicola. In questo venerdì 24 maggio i titoli: il Sole 24 Ore apre sull'assemblea di Confindustria, Squinzi, un'Italia nuova con la forza dell'industria, questo è il titolo di prima pagina. Anche il Corriere della Sera apre su questo: il Nord è sull'orlo del baratro, questa frase che ritroviamo sul Messaggero, anche siamo sull'orlo del baratro, è una delle frasi che ha detto il presidente di Confindustria. Il Manifesto mette proprio la foto di Squinzi con il titolo «I ricchi piangono». L'apertura invece politica è legata soprattutto alle motivazioni della sentenza di condanna in appello a Berlusconi. Repubblica, Berlusconi, premier e evasore, il Cavaliere, accuse ridicole. La Stampa, Berlusconi, evasore da premier. Il Fatto Quotidiano, il partito dell'amore minaccia la Boccassini. È arrivata una busta con due proiettili alla PM milanese. Gestiva l'evasione da premier, anche il titolo dell'Unità. Il Giornale invece: contro la mala giustizia, la rivolta del PDL. Mentre Libero si concentra sulla casa, fare affari con la casa, cosa e quando comprare. Una sorta di guida su come fare affari appunto con il mattone in questo momento del mercato immobiliare. Allora, io però voglio iniziare da due notizie, proprio di quelle che vi faranno stringere le mani attorno al volante, come sapete, poi, o sul manubrio se siete in bicicletta e in moto, ma al nord Italia servono più le pagaie e i remi che le due ruote. Comunque il dato di fatto è questo: ieri ricordate che si parlava del fatto che la manovra sul riassestamento dei tribunali dell'ordinamento giudiziario in Italia verrà sospesa, quella riorganizzazione che portava magari a cancellare qualche tribunalino che subito è stata contestata in maniera bipartisan. Appena è partita la nuova legislatura, tutto sospeso. Allora Sergio Rizzo oggi sul Corriere della Sera fa un resumé di tutto quello di cui si sentiva parlare fino a qualche mese fa, e adesso scomparso. Dai tribunalini alle province, tutte le riforme mai partite. Oggi io sul mio profilo Twitter, seguitemi se volete, Alino Milan, ho detto che si conclude, tra l'altro oggi ufficialmente, la terza settimana decisiva per l'abolizione delle province. Allora, Sergio Rizzo, prima del Corriere, smontare il poco che è già stato fatto. Ecco la regola base, cui si attiene scrupolosamente ogni nuovo Parlamento. Ecco allora spuntare una commissione giustizia il rinvio di un anno dei tagli agli uffici giudiziari voluto dal precedente governo. D'accordo il centrosinistra, che ha proposto la proroga. D'accordo il centrodestra, è un testo che crea molti problemi. D'accordo con la proroga anche i grillini e perfino Scelta Civica di Monti, proprio il premier del governo autore della riforma. Difficile dire se siano più insormontabili i problemi tecnici, che pure ci saranno, invece le allergie politiche locali allo smantellamento di posti di lavoro pubblici. Ma che dire invece delle province? Non c'era certo l'abolizione nel precedente governo, ma un semplice accorpamento avrebbe fatto risparmiare 500 milioni, tutto sepolto in Parlamento sotto una irridente gragnuola di emendamenti. E poi il federalismo, completamente arenato, a cominciare da quello fiscale. Chi se li ricorda più? I costi standard, scrive Rizzo, eppure era il meccanismo pensato per farla finita con le siringhe pagate dagli ospedali del sud il doppio che dagli ospedali del nord. Niente di così complicato, soltanto una cosa di buonsenso, ma chissà perché quando si tratta di risparmiare soldi pubblici tutto diventa difficile. E così anche il piano di riordino degli incentivi industriali a cui aveva lavorato l'economista Francesco Giavazzi, per il quale inizialmente erano stati stimati risparmi di 10 miliardi l'anno. misteriosamente spiaggiato. E sulla riforma elettorale, invece, non c'è stato nemmeno bisogno di rilanciare. A nulla han portato 46 disegni di legge e 24 proposte di iniziativa popolare. Il porcellum nessuno lo voleva cambiare. Ma, conclude Rizzo, non aspettiamoci miracoli nemmeno su altri fronti. E allora, piccoli tribunali resistono ancora all'elenco dei tagli solo annunciati, li trovate in prima pagina del Corriere della Sera, e proprio in questo giorno il vicepresidente del CSM, Vietti, intervistato dal Messaggero a pagina 6, inizia così l'intervista con Massimo Martinelli: non bisogna rinviare l'aggiornamento della geografia giudiziaria che nel nostro paese è rimasta ferma all'Ottocento quando ci si spostava a cavallo. Aspetta e spera, in Parlamento pare arrivare la proroga di un anno per l'accorpamento di alcuni tribunalini. Così va l'Italia, ma se non ne avete avuto abbastanza, cari ascoltatori, questa è davvero incredibile. La trovate in prima pagina della Stampa. Laura Anello racconta l'ultima follia di Palermo. Ci sono i tram, ma non le rotaie. Avete capito bene? Il primo vagone, scrive Anello sulla Stampa, sbarcò al porto il 18 maggio di 2 anni fa, consegnato con puntualità dalla sede austriaca del colosso Bombardier. Accolto come una star da assessore, presidente della municipalizzata dei trasporti, responsabile tecnico del progetto, dirigente della società produttrice, consorzio vincitore dei lavori del tram, mancava solo la banda per accogliere il primo passo di un sogno, commentò qualcuno. Era il vagone pioniere dell'opera ciclopica che avrebbe affrancato Palermo dal primo dei suoi problemi. Il traffico, come diceva Johnny Stecchino. Fu portato di notte al deposito, un vagone avveniristico lungo 32 metri, di candore abbacinante, che percorreva l'asfalto sgarruppato di Palermo, un'apparizione fugace, surreale, da visione felliniana. Peccato che dopo 2 anni dallo sbarco trionfale, quel vagone e gli altri 16 vagoni arrivati dopo il primo a un costo di 21 milioni di euro stiano ancora a girare in tondo nella pista della grande rimessa del quartiere Brancaccio per non arrugginirsi coi sedili azzurri, le obliteratrici impacchettate. Le rotaie, infatti, non ci sono. E chissà se ci saranno mai, scrive la Stampa, perché ieri anche il prefetto della città si è dovuto rassegnare davanti all'addio della SIS, il consorzio che si è aggiudicato l'appalto per le 3 linee, ha scavato il primo buco nel 2006, ma ora dice il comune ci deve 30 milioni di euro, non possiamo andare avanti un solo giorno, e così 130 operai saranno licenziati, altri 170 dell'indotto, anche loro non si troveranno senza lavoro, i cantieri si fermeranno fino a data da destinarsi in un pasticcio burocratico kafkiano che si aggroviglierà ancora di più intorno a un contenzioso inevitabile. Eccolo qui il tram da sogno, fotografato sulla Stampa, l'ultima follia di Palermo. Ci sono i tram arrivati, 21 milioni di euro spese per acquistarli, il consorzio che si era aggiudicato i lavori per le 3 linee dice non prendiamo più soldi dal comune, ci dobbiamo ritirare, licenziamo tutti, e il tram, vabbè, cari palermitani, è su, a spinta, dai, spingete tutti a bordo del tram, pagate il biglietto, a spinta, qualcuno mi ha scritto su Twitter, magari è un tram wifi, va così, insomma, oppure come quelli a levitazione, no, del Giappone, a levitazione, che servono le rotaie? Intanto abbiamo i tram, e poi per le rotaie ci penseremo. Ed ecco Alessandro Milan, che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Siamo qui alle 7:38 minuti, eccoci cari ascoltatori. Allora, la relazione all'Assemblea di Confindustria ieri con il presidente Squinzi, che ha detto tra le altre cose il Nord sull'orlo del baratro, è un titolo che trovate in prima pagina su tutti i giornali. Nicoletta Picchio racconta, pagina 2 del Sole 24 Ore, la relazione di Squinzi, un grande progetto per una nuova Italia europea moderna, consapevole delle proprie capacità. Al primo posto dell'agenda la produzione industriale e il lavoro. Questa è la sintesi, l'estrema sintesi dell'intervento di Squinzi, che appunto si è concentrato anche sul Nord, e tra l'altro c'è un'analisi del Nord, a firma Aldo Bonomi, che trovate sul Sole 24 Ore, pagina 6. Scrive Bonomi: finalmente parole dure e chiare che riportano alla sua essenza una questione che per un lungo ventennio si è persa nelle nebbie di una politica in perenne transizione, la questione settentrionale, questione di imprese, di lavoro, di una civilizzazione produttiva sulla quale questo paese si gioca la possibilità di averlo un futuro. Oggi i nodi vengono al pettine, partita 20 anni fa come protesta dei produttori in un'Italia che aveva saputo rispondere alla crisi della grande fabbrica fordista e dello stato imprenditore con il vitalismo del basso di milioni di capitalisti molecolari del mitico nord-est-centro. Oggi la questione del nord ridiventa questione sociale ed economica. Per lungo tempo la sua traduzione romana si è ammantata di un dibattito federalista tanto astratto quanto inconcludente. Nel frattempo a nord era in atto una transizione tanto epocale quanto poco riconosciuta da quelle classi dirigenti che avrebbero dovuto governare gli impatti. Scomparso il motore della grande impresa fordista nord-ovest, con distretti del grande asse pedemontano e della via Emilia in via di verticalizzazione attorno a una media impresa che si stava internazionalizzando, la questione del nord aveva cambiato pelle senza troppi clamori. E continua Bonomi, insomma, in questo si è persa un po' nelle nebbie anche della politica e ora è stata rilanciata dalla relazione di Squinzi. Tra l'altro Rossella Bocciarelli, sempre a pagina 6, mette i numeri della crisi al nord, la fotografia dell'Istat: tra il 2007 e il 2011 il PIL pro capite nelle regioni settentrionali è diminuito di 2.143 euro contro i 1.097 nel mezzogiorno. Questo uno dei dati. L'Istat certifica che in media il PIL pro capite degli italiani è stato pari a 22.836 euro, sono ben 2.303 euro in meno del livello del 2007. Quindi è intuitivo che l'impoverimento, la distribuzione di ricchezza indotta da 5 anni di crisi economica debba per forza riguardare anche quelle che una volta erano le roccaforti dello sviluppo economico. Secondo l'economista Pierluigi Ciocca, nell'ultimo quinquennio per l'Italia sono andati perduti qualcosa come 500 miliardi di PIL potenziale, fortunatamente un po' sopperiti dalla domanda estera, che continua a svolgere un ruolo fondamentale per sostenere l'attività produttiva. Ma insomma, questi sono i numeri del nord. Il Manifesto, per la verità, attacca in prima pagina con il titolo «I ricchi piangono». Il nord Italia sull'orlo del baratro, questa è la visione catastrofista, scrive il Manifesto del leader degli industriali, che attacca anche il fisco punitivo, la scelta di sottrarre una parte di risorse del fondo per lo sviluppo e destinarle alla cassa integrazione in deroga. Viene definito Squinzi presidente delle larghe intese, così a pagina 3, anche perché ha raccolto il sostegno del premier Enrico Letta. A proposito di economia, una notizia che c'è solo sul Fatto Quotidiano, la firma è Giorgio Meletti a pagina 4, riguarda un altro grande industriale, oltre che presidente dell'Inter, Moratti, ma qui si parla della sua attività. Morte in fabbrica, i Moratti indagati per omicidio colposo, così racconta il Fatto Quotidiano. Un concorso in omicidio colposo per i fratelli Gianmarco e Massimo Moratti, considerati direttamente, personalmente responsabili della morte di Pierpaolo Pulvirenti, operaio ucciso il 12 aprile di 2 mesi fa all'interno della raffineria Saras di Sarroch. Questa è la tesi che, scrive anche il Fatto, farà molto discutere. L'ha chiesto il PM Emanuele Secci nell'avviso di conclusione indagini, usa parole severe per i due industriali milanesi. La richiesta di rinvio a giudizio sostiene una tesi che farà discutere, perché anche se la raffineria è a centinaia di chilometri dagli uffici milanesi della Saras, anche se i fratelli Moratti hanno le loro dipendenze dirette e indirette migliaia di persone, in quanto datori di lavoro devono occuparsi personalmente della sicurezza di chi lavora per loro, ed ecco quindi la richiesta sicuramente pesante di indagine per omicidio colposo. In tutto questo la politica, intanto quella che appare una buona notizia se verrà oggi confermata. Come sapete, Enrico Letta ogni venerdì mattina ha deciso che ci sarà il Consiglio dei Ministri, e nel Consiglio dei Ministri di oggi pare, da indiscrezione dei giornali, Repubblica addirittura vi dedica 2 pagine, ci sarà l'inizio della discussione politica per lo stop al finanziamento pubblico dei partiti. È uno dei cavalli di battaglia che Letta ha detto insieme al lavoro giovanile vogliamo portare avanti. Ecco qui, Francesco Bei, prima pagina di Repubblica, stop al finanziamento ai partiti, il pacchetto oggi in Consiglio dei Ministri. Quello che nessuno si aspettava, scrive Francesco Bei, e siamo a pagina 10 di Repubblica, è che la riforma, lungamente attesa dopo il tradimento del referendum abrogativo del 93, sarà oggi il primo punto del Consiglio dei Ministri. Il governo inizierà infatti la discussione sui principi generali del disegno di legge che abolisce il finanziamento pubblico e lo sostituisce con varie forme di contribuzione dei cittadini agevolate fiscalmente. Noi ne abbiamo parlato qualche giorno fa, l'ipotesi è quella di accorpare gli almeno 7 disegni di legge già depositati dei renziani del PD, del Movimento 5 Stelle, uno del leghista Calderoli e Scelta Civica di Gregorio Gitti, che propongono ridurre appunto o abolire, come il Movimento 5 Stelle, il finanziamento ai partiti, cercare di studiare tutte queste proposte di legge e fare un disegno di legge o un decreto legge, questo si vedrà, che cerchi di fare una sintesi di queste proposte. Anche per il Messaggero, soldi ai partiti, la mossa del governo a pagina 11, basta erogazione a pioggia, rimborso delle spese elettorali solo se documentate e invece di fondi lo Stato fornirà servizi. E così anche sul giornale Letta fa il grillo via i soldi ai partiti. A proposito di soldi ai partiti, a proposito di grillo, però il giornale stesso a pagina 8 dà questa notizia: la Camera apre un'indagine sui 5 milioni versati ai 5 Stelle. La vicenda è questa. Emanuela Fontana la racconta appunto a pagina 8. C'è un gruzzolo che è nella disponibilità del Movimento. Non è il gruzzolo, cioè, di quattrini che il Movimento 5 Stelle ha detto di voler rinunciare, ma è invece quello che terranno. Sono più di 5 milioni e mezzo alla Camera e circa 6 milioni al Senato. E a Montecitorio due lettere inviate dai gruppi di PD e SEL hanno sollevato il caso sull'utilizzo di questi fondi. Sono missive riservate inviate alla Presidente della Camera Laura Boldrini, che ha aperto con la presidenza un'istruttoria, perché PD e SEL scrivono che c'è un margine di notevole ambiguità nell'utilizzo dei fondi parlamentari, perché lo statuto grillino prevede che la gestione sia fatta da Beppe Grillo, e questo secondo PD e SEL contrasterebbe il regolamento interno della Camera, perché le norme di Montecitorio prevedono che una persona non eletta non può disporre del denaro pubblico destinato ai politici. Vabbè, insomma, è una vicenda che ancora riporta la questione soldi Movimento 5 Stelle. Noi avremo ospite alle 8:30 Vito Crimi, che è il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, per parlare di vari temi politici, anche il rapporto, insomma, tra il Movimento e i soldi, che è uno dei temi più discussi in questi giorni. Comunque, la Camera apre un'indagine sui 5 milioni versati ai 5 Stelle, questo è il titolo del giornale. Intanto Berlusconi è dato per furente dopo le deposizioni, dopo il deposito delle motivazioni della condanna in appello a 4 anni. Umore a terra, rabbia in corpo, delusione per il doppio colpo ricevuto e deluso e provato. Così dal Corriere della Sera, pagina 3, viene descritto Silvio Berlusconi nell'articolo di Paola Di Caro. Ieri depositate appunto le motivazioni della sentenza condanna in appello. Come racconta Luigi Ferrarella sul Corriere a pagina 2, cosa hanno scritto i giudici per motivare la condanna? Beh, con una strategia originata in anni in cui Berlusconi era incontestabilmente il gestore diretto di tutte le attività, il gruppo Fininvest e più precisamente il suo fondatore Dominus, con l'aiuto dell'avvocato Mills, ha costituito una galassia di società estere, alcune delle quali occulte, che occulte dovevano restare, tanto da corrompere la Guardia di Finanza che rischiava di scoprirle. Così inizia, insomma, parole durissime. Tra l'altro, scrive Ferrarella, e tanto che Berlusconi, che però è stato convinto, come spesso succede da alcuni suoi consiglieri, a non esternare, a non parlare, tanto che Repubblica parla di una sorta di strategia Andreotti da parte di Silvio Berlusconi. In un retroscena a firma Carmelo Lo Papa, pagina 7, la strategia Andreotti sarebbe quella di attendere la Cassazione, esternare meno, soprattutto nei confronti dei giudici. Non per niente è stato anche ingaggiato per la Cassazione Cassazione l'avvocato Franco Coppi, che è un avvocato molto influente, un avvocato molto bravo, che ha difeso anche appunto Giulio Andreotti. Insomma, toni bassi, l'obiettivo è la Cassazione, tanto che ancora una volta ha fatto trapelare Silvio Berlusconi: il governo non è assolutamente a rischio, cioè non si vuole vincolare le questioni giudiziarie private di Berlusconi con l'esito politico della tenuta del governo. In tutto questo clima sono arrivate anche delle minacce esplicite a Ilda Boccassini, PM di Milano: due proiettili di fucile, un classico, racconta Repubblica, per le buste con le minacce a morte. In brutta, tra gli insulti, ecco la scritta che non lascia dubbi: ti ammazziamo. Questo è quello che è arrivato, come ha fatto sapere il capo della procura Bruti Liberati, a Ilda Boccassini. Vabbè, la politica, c'è anche da dire, sì, il tema dell'ineleggibilità di Berlusconi continua, le polemiche, il porcellum, o meglio, adesso Renzi ne ha coniata un'altra, il maialinum, perché le modifiche piccole al porcellum che non piacciono a Renzi e a renziani, ma anche a molti altri del PD, darebbero dal porcellum al maialinum. Ma è spuntato anche l'obbrobrium, l'inciucium. Vabbè, insomma, che dobbiamo, bisogna commentare questo schifum, come l'ho già definito. Sempre per la politica, notizia politica e giudiziaria: La Vitola, Walter La Vitola, ricordate, ex editore dell'Avanti, in carcere, può tornare a casa come arresti domiciliari. Il carcere è tramutato in arresti domiciliari, ma avrà il braccialetto elettronico, quelli che abbiamo comprato a bassi costi, no? Pagina 11 del Fatto: l'ex direttore dell'Avanti non ha mai accusato Berlusconi, nonostante le promesse di rivelazioni durante la latitanza. Comunque torna a casa, dovrà portare però il braccialetto elettronico per il controllo dei suoi spostamenti, Walter La Vitola. Lasciamo la politica, una notizia che secondo me è importantissima. Per qualcuno su Twitter mi ha scritto addirittura la notizia del giorno, adesso non lo so. Comunque è una notizia di uno spaccato anche di come va l'Italia. Il Politecnico di Milano, prestigiosa università, aveva deciso con il rettore dal 2014 di fare tutte le lezioni solo in inglese. Lo ha annunciato il rettore: nel giro di 2 anni sarà così, il rettore Giovanni Azzone. Che è successo? Ricorso di un centinaio di professori, sempre del Politecnico, il TAR dà loro ragione e dunque, eccolo qui, pagina 27 del Corriere: no all'inglese come lingua esclusiva. Il TAR ferma il Politecnico di Milano. Accolto il ricorso dei professori contrari alla svolta dell'università. No all'inglese come lingua esclusiva all'università. Questa scelta incide per il TAR in modo esorbitante sulla libertà di insegnamento e il diritto allo studio. Questo slancio in avanti dunque del Politecnico, che l'anno scorso aveva annunciato solo lezioni in inglese dal 2014, è stato fermato dai giudici del TAR, che hanno accolto il ricorso presentato da un centinaio di professori dell'Ateneo. Ora uno la può pensare come vuole, ma a me l'idea sempre che ci sia un ricorso al TAR che poi accoglie, sulla base delle leggi evidentemente, un qualcosa che uno vuole fare, è l'emblema proprio dell'Italia che non... Io non sto discutendo se sia giusto o no che il Politecnico di Milano, ma è il concetto di qualsiasi cosa uno voglia fare per innovare, giusto o sbagliato che sia, viene bloccato da un ricorso al TAR. Che dire, voglio darvi questa notizia sempre dal Fatto Quotidiano: tapiro d'oro per Ezio Greggio, così titola il Fatto. Perché secondo Luigi Franco, pagina 8, a Ezio Greggio viene pagato lo stipendio all'estero. Perché, chiede il Fatto, Ezio Greggio ha la residenza a Monte Carlo? Vicino, sì, ma almeno 300 chilometri dagli studi di Mediaset, dove deve registrare oltre 160 puntate all'anno. Mediaset ha speso negli ultimi 4 anni più di 23 milioni di euro, parte dei quali finiti a una società con base in Irlanda. E allora il tapiro per Ezio Greggio, lo stipendio pagato all'estero, chissà se darà qualche spiegazione. Oh, si sono mollati Federica Pellegrini e Filippo Magnini, hanno fatto anche un comunicato stampa. C'è un'intervista anche di Federica Pellegrini a pagina 23 di Repubblica: io in prima pagina senza volerlo, se le mie storie diventano pubbliche non c'è calcolo ma solo sincerità. E dice: ma che triangolo, adesso si è inserito il cugino, forse il cugino di Filippo Magnini, sarà stato il cugino a rovinare tutto. domandona, eh? Interrogatevi su questo. 24 mattino. E allora ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8:18 minuti, eccoci qua. Allora, il più perfido di titolo oggi è stato quello di Libero: Andreotti batte cassa da morto. E, beh, anche macabro, ma insomma la notizia è di ieri, diffusa dal Messaggero, che gli eredi di Giulio Andreotti hanno chiesto al Senato ciò che spetta loro legittimamente, cioè che venga data in reversibilità il cosiddetto assegno, insomma, di fine mandato, quello che sarebbe il TFR per i lavoratori normali. Allora, noi abbiamo uno dei tre questori del Senato, cioè coloro che tengono i conti del Senato, Lucio Malan del Popolo della Libertà. Buongiorno e benvenuto, senatore. Buongiorno a lei, gli ascoltatori. Allora, li state facendo i conti? Intanto diciamo che è tutto legale e legittimo, cioè è il TFR, diciamo, no? È il TFR di una persona che è stato per 67 anni alla dipendenza dello stesso, diciamo, sì, datore di lavoro. Sì. Ed è un caso davvero anomalo. Aggiungi che, appunto, sono indubbiamente è uno stipendio superiore alla media, ma abbiamo già visto liquidazioni assai maggiori nel giro, non in ambito politico ovviamente, perché Andreotti non può essere, certo, un record, certo. Ma che so, banchieri che hanno, insomma, che hanno anche, sì, anche tra quelli che non si sono particolarmente distinti per la buona amministrazione, che se ne sono andati con cifre impressionanti, con molto meno di 67 questo anni. È vero. No, lui è stato 65 anni, per carità, ogni mese dallo stipendio del parlamentare viene accantonato appunto una cifra, che quant'è di percentuale? E guardi, dovrebbe essere il 6, credo, proporzionale, sì, degli altri, deve essere 8, qualcosa, 8,6%. E quindi quando uno finisce ha diritto al cosiddetto TFR. Sono lì accumulati, esattamente, sì, cioè già pure pagato l'IRPEF su quella. Avete fatto dei calcoli? Cioè, ieri girava questa cifra: 1 milione di euro. Questo spetta agli eredi di Andreotti. È questa la cifra? Allora, se fossero agli stipendi con l'indennità parlamentare di oggi, la cifra sarebbe intorno ai 550.000 euro. Però in passato si prendeva di più, per cui può darsi che Andreotti prenda di più. Però non dovrebbe arrivare al milione. Il fatto è che per un caso anomalo, probabilmente perché non ho ancora accertato con certezza, i senatori a vita godono anche loro di un'assicurazione sulla vita, il che è un po' paradossale, perché è chiaro che moriranno in servizio i senatori a vita, perché è incredibile questa, cioè i senatori a vita che rimangono a vita, che rimangono senatori finché non muoiono, hanno un'assicurazione sulla vita, cioè, Esattamente, cosa che è francamente anomala a quel punto lì, tanto varrebbe dargliela da vivi, perché tanto sei sicuro che la percepiscono, no? Cioè, voglio dire, che i loro eredi, che oltretutto nel caso dei senatori a vita è sempre, certamente, sempre doloroso perdere il padre o la madre nel caso di una senatrice, però insomma ormai i figli di Andreotti sono persone probabilmente in pensione loro, sì, stessi, sì, perché talmente... Quindi questo farebbe lievitare un po' la cifra? Farebbe lievitare un po' la cifra? Sì, questo lo farebbe lievitare, potrebbe arrivare dalle parti del milione, però le dico, sono stime che ho fatto io perché non ho no, ma è chiaro. Tabulati della no, ma è chiaro, potrebbe, diciamo, arrivare a 1 milione di euro. Certo che, senatore Malan, per molti italiani che pensano che Andreotti ci dovesse qualcosa, magari in termini di spiegazione, adesso siamo ancora noi a dovergli dare... Guardi, io. Per me Andreotti, sotto molti aspetti, ha rappresentato anche un modo di fare politica che è quello che ha generato una parte dei nostri guai, ma è anche quello che ha preservato la nostra libertà a lungo. Non Andreotti da solo, naturalmente, ma quel governo. No, vabbè, ma questa era una mia riflessione, cioè a dire, gli dobbiamo ancora qualcosa ad Andreotti. Sì, tra, sì, l'altro, sì, ma anche a certi amministratori. No, ma per carità, ma certo. Senta, vanno ovviamente agli eredi. Ecco, gli eredi, cioè la moglie e i quattro figli, hanno fatto domanda esplicita? Sì, perché se immagino di sì. Cioè hanno fatto... Non è necessario, non perché è necessario, appunto, essendo soldi, è proprio esattamente, funziona esattamente come per un ordinario lavoratore dipendente, e per cui anzi è dovere dell'azienda andare a cercare gli aventi diritto. E come se li dividono? Com'è che spetta la moglie? A meno che il senatore Andreotti abbia dato indicazioni diverse, vanno secondo eredità, secondo la legittima eredità, per cui un terzo alla moglie e i rimanenti due terzi divisi in parti uguali tra i figli. Tra i figli. Secondo lei è opportuno, però questo dipende dalle scelte personali, che una persona possa rinunciare magari in questi tempi anche di crisi a questo milione, oppure dice no, è una cosa che spetta, perché dovrebbero rinunciare dei soldi? Sa com'è, quando tocca agli altri è facile. È facile dirlo, quando tocca a loro. Io adesso non ho idea di come siano i conti di casa Andreotti, sicuramente Andreotti ha avuto per tanti anni un ottimo stipendio. È anche vero che si diceva, forse l'aveva detto lui stesso, che aveva dovuto intensificare la sua attività di scrivere libri per potersi pagare, le enormi spese che va incontro chi ha a che fare con la giustizia. Beh sì, questo sì, avrà pagato molti avvocati. Questo ha avuto a lungo e diceva che praticamente poi, non lo so, le tasche degli altri sono sempre difficili. Sì, è facile fare i conti con le tasche altrui. No, ma la domanda che le volevo fare è questa. Ieri sul Messaggero, il Mattino, che è andato questa notizia, si parlava anche di una difficoltà finanziaria dal punto di vista del Senato, cioè questa liquidità per questa morte che insomma è arrivata e quindi vi pone di fronte al fatto di dover sborsare, diciamo, attorno al milione di euro, potrebbe far trovare qualche difficoltà finanziaria al Senato. È così? Cioè ci sono questi soldi in cassa da dare ad Andreotti? Allora, se fosse solo per il fatto di Andreotti ci sarebbero. Il fatto è che contemporaneamente, quasi contemporaneamente, c'è stato il più grande ricambio della storia della Repubblica, e cioè 200 senatori uscenti non sono stati rieletti. Ah certo, quelli hanno il TFR tutti. Esattamente, hanno anche loro naturalmente cifre. A quanto ammonta il totale, si sa? Quanti soldi? Sono diversi milioni. Sono diversi cioè, milioni. Più o meno. Credo che siamo sui 5 o 6, una cifra di questo genere. E allora naturalmente questa cosa, credo che qualunque azienda avrebbe dei problemi se i due terzi dei suoi dipendenti dovessero lasciare la certo, di colpo. Come se tutti si presentassero in banca di colpo a dire datemi i soldi del mio conto. No, infatti è quello che so per certo è che ad oggi, a due mesi e mezzo dalla cessazione della carica, ancora nessuno ha ricevuto queste spettanze, perché indubbiamente ci sono, certo, sono soldi che sono stati accantonati, però è un po' come sistema previdenziale. Sì, no? Vengono investiti nel frattempo. Mi danno, quando sarò in pensione mi danno i soldi che oggi verso, ma in pratica oggi i soldi che oggi verso vanno per pagare le pensioni di qualcun altro, di quelli che hanno del passato e così via. Allora, no? Quindi ci sono questi soldi o no? È un po', state un po' facendo melina. Di competenza ci sono, ma di cassa no. Di cassa no. E come? Di diritto ci sono, però il fatto che si siano di diritto non li fa saltare fuori, perché appunto si è cercati di stare molto stretti come tesoreria per riservare il più possibile, per chiedere meno. Chissà che magari. Un ricambio normale potevamo anche affrontare la questione Andrea. No, ma nel salutarla e ringraziarla, chissà se senatore Malan questi soldi saltano. Magari sa, diritti acquisiti per gli italiani a volte sono stati modificati. Fate un bel colpo di Stato. Per la verità, diritti acquisiti di questo genere proprio mai. Sa che se un'azienda fallisce, i primi ad essere primi aventi diritto, credo ancora insieme ai dipendenti, naturalmente. Ci sono i soldi del TFR, poi vengono i fornitori, eccetera. Questo è proprio diritto acquisito. Quindi i soldi al momento non ci sono, ma vogliamo tranquillizzare gli eredi di Andreotti, magari ci sono come diritto che nessuno vi tocca, sono lì, appena spuntano questi soldi verranno liquidati. Io devo dire, su questo i familiari, la famiglia di Andreotti non ha alcuna responsabilità, perché voglio dire, è un diritto, quindi sono persone anche loro, certo sono soprattutto personaggi pubblici, però per loro, per se stessi, sono persone che hanno le loro chissà, non lo so, io spero che siano tutti in ottime situazioni sotto ogni punto di vista, ma non li conosco. No, ma è chiaro. Intanto la ringrazio, senatore Malan, per essere stato con noi. Lucio Malan è uno dei questori del Senato e Popolo della Libertà, e noi tra 6 minuti rientriamo. Ci sarà con noi il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi. Sarà con noi fino al termine della trasmissione per rispondere a varie domande sull'attualità politica. 24 mattino. Eccoci, siamo qui alle 8:33 minuti in punto. Sarà con noi, è con noi fino al termine della trasmissione alle 8:55, rispondere alle nostre domande di attualità politica il capogruppo al Senato per il Movimento 5 Stelle Vito Crimi. Buongiorno, buongiorno senatore, eccoci qua. Allora, le faccio subito sentire Beppe Grillo sul tema economico che ha fatto un po' discutere, no? La questione dell'euro e il referendum dell'euro. Sentite Beppe Grillo, cari ascoltatori. Nessun partito, nessuna persona deve arroccarsi il diritto di dire sì o no per una cosa così importante che coinvolge 60 milioni di persone. Vuol dire che faremo l'informazione di un anno e poi andremo a fare un referendum e diremo sì o no all'euro, sì o no all'Europa, vedremo. Allora, Vito Crimi, partiamo da qui. Ma non sembra una follia un referendum sull'euro, peraltro sull'Europa, che non sono materie oggetto di referendum popolare? Infatti, quando Beppe parla, Beppe è comunque il nostro, lo definiamo sempre il nostro megafono, il nostro provocatore, colui che dà un po' il senso, diciamo, al nostro, alla nostra attività politica, di tutto il movimento. Bisogna capire anche quello che sta dicendo, nel senso che all'inizio lui ha parlato di, ad esempio, bisognerebbe che ogni decisione che coinvolge 60 milioni di cittadini sia fatta coinvolgendo 60 milioni di cittadini. Quello dell'euro è un esempio, è un modello. Su tanti altri temi andrebbe fatta la stessa cosa, ma andrebbe fatta ex ante. Purtroppo non è stata fatta. Però non è sempre, cioè non è sempre così, nel senso, uno vota, elegge un governo, poi il governo fa delle politiche in termini, so, politica appunto, estera, appunto, fiscale, ma non è che tutto, cioè, deve essere diciamo sottoposto. No, ma appunto proprio quello che noi vorremmo completamente stravolgere. Vorremmo che ricominciasse un maggiore coinvolgimento dei cittadini nell'attività politica, e questo è fondamentale. Chiaramente non parliamo delle scelte singole, giornaliere, quotidiane, nelle scelte di routine, oppure neanche delle scelte che rientrano in un programma elettorale. Se io sono stato eletto con un programma elettorale, io non ho motivo di andare a interpellare i cittadini in merito al programma elettorale per il quale sono stato eletto. Ma se io sono stato eletto con un programma elettorale e poi disattendo quel programma, ogni scelta al di fuori di quella linea comunque va in qualche modo allargata la base di coinvolgimento. E questa verrà nel caso punita dagli elettori che dicono non hai seguito il programma. Comunque, il danno è fatto, giustissimo. Però il danno è fatto, quindi questo è il problema. Quello che le chiedo è sulla questione euro. Lei, al di là della provocazione, al di là di essere appunto il megafono, dire, interpretare quello che dice, lo chiedo direttamente a lei: secondo lei è possibile immaginare un referendum e un'Italia fuori dall'euro? È addirittura auspicabile? Bisogna ragionare sulla questione euro, perché non è così scontato, e non è neanche così scontato che si debba ragionare sul euro sì o euro no, ma ci sono varie possibilità, come la possibilità di euro a due velocità, che ormai è un'indicazione che viene anche da tanti economisti, sul fatto che ci sono non è una questione della moneta, il tipo di moneta che utilizziamo, chiaramente, ma stiamo parlando di euro intesa come unione di monete che vanno con le stesse regole e alla stessa velocità. E ci sono paesi che non hanno più che non possono più stare alla stessa velocità di altri paesi, che hanno bisogno di adottare politiche monetarie diverse per poter rilanciare la propria economia. Quindi, però l'euro come moneta lei lo preserverebbe, diciamo? L'euro non è l'euro come moneta il problema, la chiami euro, la chiami lira, non cambia fondamentalmente. L'euro è intesa come moneta unica, cioè moneta che sia in Germania che in Italia è nello stesso istante, nello stesso momento, soggetta alle stesse regole, alle stesse politiche monetarie. E questo è il senso, ovviamente, dell'euro sì, euro no. E su questo lei auspica un referendum? Cioè è un qualcosa davvero sulla quale potete lavorare? È qualcosa sulla quale dobbiamo lavorare, sì. Sulla quale un referendum lavorare. Purtroppo per il nostro ordinamento non è possibile. Certo, se fosse introdotto, e qui viene anche l'altro tema, se fosse introdotto quello che è uno dei nostri punti del programma, la possibilità di fare anche referendum propositivi o consultivi, non solo abrogativi, referendum in cui i cittadini possono deliberare su determinati temi direttamente. Bisogna cambiare la Costituzione, questo però, perché cambiare la Costituzione, perché ci sono alcune tematiche, come appunto fiscali, che non sono soggette a referendum abrogativi. Appunto. Infatti parlavo di consultivi e non abrogativi. Sì, certo. Senta, dal punto di vista economico, ieri sempre Beppe Grillo, in un'intervista credo al Corriere del Ticino, sì, ha detto così riguardo ai suicidi, al dramma dei suicidi: è il secondo imprenditore di Savona che si dà fuoco. Non vuol dire ammazzarsi, ma è un significato politico, come fanno i bonzi tibetani. Un gesto di eroismo. Addirittura, secondo lei, sono eroi quelli che si danno fuoco? Come i bonzi si possono paragonare a questo? Ma non so se definirli eroi, sono persone che hanno sicuramente hanno raggiunto un livello di esasperazione e di disperazione, e quindi a quel punto non hanno altri gesti. È vero che alcuni probabilmente lo fanno anche per immolarsi affinché si presti attenzione a questo problema. Ci possono essere anche quelli che lo fanno con questo obiettivo, e in quel caso, benché io non auspico mai l'utilizzo della violenza nei confronti degli altri, nei confronti di se stessi, però diciamo, potrebbe essere vista in questo senso. Insomma, sono le persone che sicuramente nel momento in cui fanno questo gesto hanno attirato l'attenzione su una questione fondamentale in questo paese, senta, prima di tante altre. L'emergenza non è una questione di priorità, ma una questione di emergenza. A proposito di denaro e di finanziamento ai partiti, non so se hai già letto oggi i giornali, ma Repubblica, ma anche altri giornali, dicono che in Consiglio dei Ministri, oggi, questa mattina, Enrico Letta vorrebbe portare tutti i disegni di legge, proposte di legge per abrogare il finanziamento pubblico ai partiti, una è anche depositata a firma vostra, per cercare una sintesi. Questa è una buona notizia, cioè voi appoggereste un decreto legge del governo che mira a rivedere il finanziamento pubblico ai partiti? No, mi piace questa parola, per cercare una sintesi, è bellissimo. Il finanziamento pubblico ai partiti è stato abolito da un referendum, sì, quindi non ci sono sintesi. La sintesi la dovrebbe chiedere ai cittadini, ma volete ritornare indietro su un referendum, una decisione che avete preso? Facciamo come il nucleare, non so, facciamo un'altra campagna di un altro anno per far ribadire ai cittadini, ma allora non l'avete capito che il finanziamento pubblico ai partiti è stato abolito con un referendum. E questo, quindi, sì, però poi è stato reintrodotto in altra forma. È stato reintrodotto in un'altra forma. Perché i partiti devono discutere di trovare una sintesi su come utilizzare soldi di altri, dei cittadini, per finanziare se stessi. Chiedano ai cittadini se vogliono dargli i soldi. E questa è la cosa che dobbiamo stravolgere. Ecco un altro motivo per cui i cittadini devono tornare a fare la politica il più possibile attivamente. Quindi secondo perché lei molto... sono persone che stanno decidendo di usare i tuoi soldi, i suoi, sì, e i miei, per finanziare loro, e lo stanno decidendo loro facendo questa sintesi, bella parola per definire. Quindi secondo qualcosa. Lei bisognerebbe fare in una riga, dire mettere a zero il finanziamento pubblico ai partiti, basta. Questo è ancora più semplice, una riga per dire facciamo quello che i cittadini ci hanno detto di fare con un referendum. Ecco, è ancora più semplice, perché non è tanto abolire il finanziamento pubblico ai partiti, ma a fare quello che i cittadini hanno chiesto. Nessun finanziamento ai partiti. Sempre a proposito di soldi, perché Renzi dice che voi badate solo agli scontrini? Per vari giorni siete andati sui giornali, non dica che è solo colpa dei giornalisti, poi parliamo del rapporto anche con i giornalisti. Però, è colpa di chi legge solo i giornali. E magari non consulta i siti di Camera e Senato e non va a vedere, andando a cercare per proposte di legge presentate, cosa è stato fatto. Però effettivamente il dibattito sulla diaria c'è stato, non è che, e quindi cos'era? Era una notizia anche per i giornali. Ecco, quando c'è il dibattito sulla diaria abbiamo fuori stuoli di giornalisti, veramente questo è così e non è. Noi ci vediamo tutte le settimane per due assemblee in cui discutiamo di temi politici, in cui ogni venerdì abbiamo fatto per adesso un laboratorio sul reddito di cittadinanza e abbiamo presentato tanti disegni di legge, sono tutti depositati al Senato e alla Camera, e però non abbiamo stuoli di giornalisti che ci chiedono. È vero che oggi avete presentato il decreto per l'abolizione delle province, visto che se ne parla tanto, avete presentato l'abolizione dell'IMU, è vero che avete presentato l'impignorabilità della prima casa. Due settimane fa abbiamo presentato il disegno di legge di una riga, l'impignorabilità della prima casa, ok? E sento ieri qualcuno che anche si vanta di esserne l'autore, l'artefice o il promotore. Ecco, questa cosa non mi va. Che si dica che noi parliamo solo di scontrini. Quindi a Renzi che dice? Che dice questo? Come risponde lei? Ecco, che si informi in modo diverso, dico a Renzi, che non guardi solo giornali e TV, ma guardi anche i siti istituzionali dove trovare informazioni istituzionali. E poi sinceramente le dico, lezioni da una persona che è stata eletta per fare il sindaco e non ha mai fatto il sindaco, ha fatto solo la campagna elettorale permanente per da 2 anni, non le voglio, e vado a fare il sindaco prima di fare le lezioncine agli altri movimenti democratici. Senta, a proposito, però, così la chiudiamo la questione di Arie, ma se qualcuno del movimento non restituisse la parte non rendicontata, è fuori dal movimento, oppure è dentro il movimento e basta, insomma, e può farlo? No, non può farlo, è fuori dal movimento, per cui ovviamente non è che è una cosa automatica, ma verrà invitato a seguire quello che è stato deciso e basta. Ecco. Quindi la diaria va restituita tutta, se uno vuol tenere anche una parte di quella non ricordata. Stiamo parlando di una piccola parte dell'indennità del parlamentare, sì, certo, che è la certo, diaria, certo. È solo della parte non rendicontata. Però il principio è questo, cioè verrà invitato a dire a queste regole, cioè, tu non fai parte più del movimento. Certo, la parte non rendicontata della diaria che serve per le spese di mantenimento a Roma. Però non sa molto di espulsione, sa, vi accusano spesso di dire, ecco, essere molto rigidi, e questo non è per forza un male, però a essere anche molto rigorosi in questo, sei coerenti. Fuori dal coerenti. La parola più importante è coerenti. Se vogliamo noi, la politica deve essere fondamentalmente coerenza, è la cosa che è mancata negli ultimi 60 anni in Italia, non 20, gli ultimi 60, la coerenza. Io vengo eletto perché ho detto delle cose in campagna elettorale, se non le avessi dette non sarei stato eletto, è questo che dovrebbero prendere come linea guida a tutti i partiti, altrimenti non avrei preso i voti se non avessi detto quelle cose, quindi quelle cose le devo fare, non le posso, le devo fare prima di tante altre, quindi non mi devo occupare di cose di cui non ho parlato in campagna elettorale, me ne occuperò se è necessario, se c'è un'esigenza. Allora, tra un minuto e mezzo riprendiamo dopo il traffico e la pubblicità con Vito Crimi, che è il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, ancora la politica, i rapporti con i giornalisti, tante altre domande, insomma, abbiamo per lui fino alle 8:55. Eccoci qui, siamo con Vito Crimi, senatore, Movimento 5 Stelle. Allora, Crimi, ce lo vuole dire una volta per tutte, esiste o no questa lista di giornalisti bravi e meno bravi tra di voi? Magari non scritta, magari, però ne discutete? Assolutamente no, non c'è una lista di giornalisti bravi e non bravi. Ognuno di noi ha avuto modo di confrontarsi con molti dei suoi colleghi, ma quando ci si confronta nel tempo si impara a conoscerli, e quindi si impara anche a conoscere qualcuno che quando dice qualcosa poi la travisa o la mette in modo diverso, oppure la utilizza in modo distorto, e questo purtroppo è capitato sulla mia pelle. Io potrei portare tanti esempi in questo senso, quindi questa cosa mi dà, diciamo, a quel punto e a quel giornalista io solitamente lo chiamo, sì, e gli dico, chiedo di lo chiarisco al volo. Ci fu anche il famoso fuori onda, no, che la riguardò, no, giornalisti, no, non mi, riguardo, mi stanno non mi sul cazzo fuori, non mi riferisco ai fuori onda, perché quelli sono fuori onda, io mi riferisco proprio alla a volte maliziosa reinterpretazione di aperti dialoghi, e gli esempi ce ne sono tanti, che non sono grandati molto, diciamo, non sono stati grandemente diffusi, pertanto magari non sono stati. Non comunque, quello che diciamo, non c'è una lista di programmi alla fine cerchiamo di essere presenti. Sì, e la ringrazio. Senta, invece il rapporto con Milena Gabanelli, devo fare una domanda, perché insomma è stata eletta dal popolo del Movimento 5 Stelle come prima delle Quirinarie, poi ci fu la rinuncia, eccetera. Adesso insomma sembra che il rapporto si sia un po' incrinato. Anche Grillo ha detto non è completamente libera. Lei che pensa di Milena Gabanelli? Guardi, non lo so, non mi interessa sapere se è libera o non è libera. Quello che so, che ho visto un servizio l'altra sera, che non era un'informazione completissima, in quanto era un insieme, sono stati messi insieme tutta una serie di informazioni anti-Grillo presenti in rete, anti-Casaleggio, senza però arrivare a molto. È stato fatto un servizio in cui sono state fatte delle domande alla fine, che potevano avere risposta direttamente, senza bisogno di porle, lasciandole così, aleggiando un dubbio su qualcosa che era talmente palese. Quando si chiede se il blog finanzia il Movimento 5 Stelle, quindi se un'attività commerciale privata finanzia il Movimento 5 Stelle, e il Movimento 5 Stelle ha preso in finanziamento da parte dei cittadini, 700.000 euro, ne restituisce 400.000 euro in beneficenza, è questo automatico dal punto di vista dei conti, devi finanziare se ne ho in più. Però dal punto di vista dei conti, ma non crede che sia anche un problema di democrazia? Cioè l'informazione del Movimento 5 Stelle, il portale più famoso, cioè il blog, è gestito da un'azienda di fatto privata, cioè la Casaleggio Associati. Non crede che questo crei una sorta di conflitto di interesse tra politica e democrazia? Cioè un'azienda privata che gestisce e veicola l'informazione del movimento. Le chiedo di verificare se i portali di tutti i partiti e di tutti i movimenti politici, ma anche dei singoli politici, sono gestiti direttamente dai politici o le affidano a società private di consulenza e gestione di attività sul web. Questo è normale. Se io devo fare un sito, se non sono un informatico e vorrei fare politica e non aver tempo da perdere a fare informatico, mi affido a una società ad hoc. Ma questo penso anche voi, nella vostra radio avete un sito, non credo che il vostro caporedattore o il direttore responsabile è lui personalmente che gestisce la piattaforma. Beh, in questo caso no, ci sono dei collaboratori. Immagino una società privata di consulenza che fa proprio quel lavoro. Il responsabile del sito è Beppe Grillo, e Beppe Grillo è il capo politico del Movimento 5 Stelle. I contenuti del sito di Radio 24 sono gestiti dalla redazione di Radio 24, ovviamente. Certo, i contenuti, ma anche i contenuti del blog sono gestiti da Beppe Grillo, è lui il direttamente responsabile. Senta, lei fa parte del comitato, della giunta per le elezioni, insomma quella che dovrà decidere anche sulla possibile ineleggibilità di Berlusconi, ma non è un discorso un po' che un po' dopo 20 anni, insomma, in cui è sempre stato considerato eleggibile, adesso non dovrebbe essere per la stessa legge interpretata non eleggibile? Non è che forse non è stata interpretata in questi 20 anni in modo corretto. Mettiamoli in questi termini, perché questa è un'opzione, è stato un consociativismo negli ultimi 20 anni, quando è inutile che riprendo il famoso discorso di Violante fatto in aula, ma penso sia ormai diventato uno dei discorsi più famosi fatti in aula, in cui assicurava Berlusconi che le sue TV non sarebbero mai state toccate, lo assicurava, attenzione, vorrei far ritornare queste parole, assicurava al presidente Berlusconi e a Letta padre, cioè Letta zio, Gianni Letta, ritorna sempre Letta, no, anche in quel caso, e ricordo questo particolare, l'ho rivisto in questi ultimi mesi, questo particolare di dire, ricordo a lei Silvio Berlusconi e a Letta, perché Violante doveva anche ricordare a Gianni Letta questo particolare, perché evidentemente era il trade union tra le due forze, oggi abbiamo Enrico Letta, quindi da una parte e dall'altra. Anche lei lo chiamerebbe come ha fatto Beppe Grillo, il Pirletta e il Pirlotto, cioè lo zio Gianni Letta? No, lasciò Beppe divertirsi con la sua ironia e la sua satira. Senta, ma secondo lei quindi Berlusconi è ineleggibile, cioè lei come rappresentante del Movimento 5 Stelle voterà così? Ma la cosa più grave invece è un'altra, sta avvenendo veramente una cosa gravissima, ed è il fatto che la giunta per le elezioni non è stata ancora convocata. Perché non c'è il presidente? Voi tra l'altro vorrei... Attenzione, non bisogna è così. Eleggere il presidente. Non è così, non è così, mi faccia dire la verità, non è perché non è stata convocata perché non c'è il presidente, non c'è il presidente perché non è stata convocata. Sì, certo, non c'è accordo su chi è il presidente, il presidente spetterebbe all'opposizione. Perché deve esserci un accordo se la votazione è segreta? E chi lo stabilisce se c'è un accordo? Io le dico che sia io, a nome del Movimento 5 Stelle, che la Lega, le due opposizioni, hanno detto no al rinvio. Quindi io non capisco perché la maggioranza deve porre le condizioni perché ci sia un accordo tra le opposizioni. Glielo dico io perché il PD è spaccato anche su questo. Vorrei che sia chiaro, però. Senta, le devo fare l'ultima domanda perché abbiamo un minuto. Lei ha detto, ma lei Berlusconi lo vorrebbe anche in carcere? No, ma non tocca a me stabilire se Berlusconi va in carcere, a parte che non ci andrà mai perché ha superato l'età per poter andare in carcere, quindi è per una legge che tra l'altro si è fatta lui quando era Presidente del Consiglio e aveva appena fatto 70 anni, ma questo ovviamente le dimentichiamo questi particolari. Non tocca a me stabilire se deve andare o non in carcere. Saranno i magistrati. Sarà la magistratura, di fatto però è già stato condannato due volte per fatti gravissimi, 4 anni interdizione ai pubblici uffici, eppure è al Senato e potrebbe legiferare. Faccio presente che Berlusconi la condanna non è definitiva. Visto in Senato, se non in due o tre occasioni. Però la condanna non è definitiva, lei sa che essendo al terzo grado di giudizio. Nel merito è definitiva, perché la Cassazione potrebbe giudicare esclusivamente sulla legittimità del procedimento d'appello, giudiziario. Questo sì. Vito Crimi, ci dobbiamo fermare qui. Io la ringrazio per essere stato con noi. I microfoni, come sapete, di Radio 24 sono aperti sempre a tutti. Grazie Vito Crimi, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle. Potete riascoltare tutto sul sito radio24.it e l'appuntamento è rinnovato a lunedì alle 6:30. 24 mattino.